si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, anzi buongiorno piano piano perché oggi c'è il silenzio elettorale, quindi dobbiamo parlare sottovoce, ma per noi non cambia molto in realtà, perché insomma i politici qua non è che li ospitiamo spesso e quando li facciamo venire li facciamo raccontare delle cose concrete, niente slogan. Comunque una cosa la sappiamo già del prossimo Parlamento: sarà un Parlamento con più donne che mai e più verde che mai, due onde inarrestabili, con dell'attenzione al gentil sesso e anche all'ambiente, e anche due cose che saranno sicuramente le spinte per l'economia che non va, perché senza donne al lavoro non c'è ripresa e senza sostenibilità non c'è economia che tenga. Tutte le forze politiche più o meno hanno sposato questi temi e noi vedremo, in attesa di sapere che cosa ci proporrà il nuovo governo su questi due importanti temi, ripeto, le donne e la sostenibilità, noi vi racconteremo un paio di storie oggi. Una soluzione innovativa per le mamme ma anche per i papà viene da Milano, Piano C, una nuova impresa, e invece vi racconteremo un'impresa tutta sostenibile, super ecologica, in provincia di Treviso. Aspettiamo all'800 24 00 24 le vostre idee, le vostre proposte su questi temi, le vostre soluzioni nelle città dove abitate, mamme, e incentivi alla green economy. Mi raccomando, intervenite in diretta, vi aspettiamo 800 24 00 24. Cominciamo però con qualche notizia della settimana. Allora, questa qua viene dal Piemonte, la regione supporta i giovani al via il progetto Mentors e Mentis, un patto generazionale che prevede che i giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono dare il via ad una nuova impresa possono avvalersi dell'aiuto di un mentor, un esperto che avrà il compito di supportare i mentis, e così vengono chiamati i giovani aspiranti imprenditori, 20 ore mensili fino a dicembre, insomma un aiuto per i giovani piemontesi ad avviare nuove imprese. Quest'altro appuntamento qua invece viene da Napoli, così anche senza dirlo siamo in par condicio, uno dal Piemonte, regione Piemonte, uno da Napoli. A Scampia c'è un nuovo progetto in collaborazione col Patto per Scampia, Napoli Sociale, il maestro Gianni Maddaloni, il grande Maddaloni, che nella sua palestra di Scampia ospiterà 108 giovani a rischio delle periferie napoletane. Chi è Gianni Maddaloni? È il padre di campioni come Pino, per esempio, oro a Sydney nel 2000, oggi tecnico della nazionale. Padre anche di Laura, la moglie di Clemente Russo, lei 13 volte campione d'Italia, insomma una storia. C'è anche una fiction che la Rai farà in autunno sullo sport come riscatto a Napoli grazie all'impegno dei Maddaloni. Cosa succede? Che un pulmino andrà a prendere i ragazzi delle periferie di Napoli e li porterà una volta alla settimana nella palestra, dove potranno allenarsi gratuitamente nella palestra del grande Maddaloni, questo a Napoli. L'ultima notizia, ve la vogliamo dare, viene da Varese. Pensate che c'è qualcuno che si occupa del nostro benessere, della nostra salute, la nostra felicità? Ebbene sì, le amministrazioni pubbliche, l'ASL, il comune, i sindacati, l'unione industriali, tutti hanno fatto un patto, un protocollo per incentivare la salute nelle aziende. Le aziende che lo faranno saranno incentivate in qualche modo. E di cosa si parla? Contrasto al fumo, promozione dell'attività fisica, contrasto all'alcolismo, promozione del benessere personale e sociale, sicurezza stradale e mobilità sostenibile. Insomma, sono tutte cose concrete che poi ci toccano tutti, ognuno di noi da vicino. 800 24 00 24, tra poco anche con i vostri interventi in diretta. Adesso invece cominciamo a parlare della nostra impresa super ecologica in provincia di Treviso. I polli sono solo miei e dei mio fratelli. Questo è hey. Si chiama Borgo Luce ed è una fattoria tutta bio, tutta sostenibile, dove non si butta via niente, assolutamente. Tutti gli sprechi, anche quelli delle produzioni, vengono reimpiegati in uno dei più grossi impianti di biomassa in Italia. Una bella storia che ci sta a dimostrare come la sostenibilità è cruciale, importante, porta posti di lavoro, funziona, e sarà sicuramente il tema su cui puntare nel futuro. Abbiamo convocato l'amministratore delegato di questa azienda, Ludovico Giustiniani. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Insomma, in questa giornata di silenzio elettorale, nella quale non si può parlare di temi sensibili, noi siamo andati a cercare questa bella storia, cosa che facciamo anche normalmente, insomma, e vi siamo venuti a trovare perché siete veramente un caso di eccellenza. Anche l'acqua viene depurata con le piante lì da voi. Vi sentite un po', come dire, una mosca bianca, una stranezza in un contesto come quello italiano o no? No, diciamo che oggi si parla molto di sostenibilità ambientale. Io ritengo che non è solo una questione di sostenibilità ambientale, cioè lasciare alle future generazioni un ambiente sano e pulito. Si tratta anche di sostenibilità sociale, cioè quello, come diceva prima lei, di creare posti di lavoro, e poi ci deve essere comunque la sostenibilità economica, cioè l'attività che vai a fare deve essere comunque un'attività che dà dei risultati economici. Mi pare che voi ci state dentro, no? A tutti questi punti di vista. Beh, noi ci proviamo e siamo, devo dire, molto soddisfatti. Lei prima parlava per quanto riguarda un impianto di biomasse. Sì. Noi già 10 anni fa eravamo partiti con degli impianti che utilizzano i residui delle potature, dei vigneti o dei boschi per creare calore, per cui riscaldamento, e da 2 anni invece abbiamo un impianto per produzione di energia elettrica che utilizza le deiezioni animali dei nostri allevamenti e parte di biomasse dedicate. Cioè, pensate, tutto quello che è scarto viene riutilizzato per produrre energia, una cosa di cui ormai oggi c'è consapevolezza, però quanti lo fanno veramente? Quanti mettono in pratica davvero delle cose come queste? Quanti invece lo dicono solo? Senta, ma costa molto fare questi investimenti? Poi lei ha detto, sono 10 anni che da questo punto di vista siete già impegnati. Immagino che poi il ritorno ci voglia un po' di tempo, ma c'è anche dal punto di vista economico. Beh, chiaramente c'è anche da un punto di vista economico, anche perché l'Italia, aderendo a quelli che sono, diciamo, i programmi di Kyoto, ha dato degli incentivi per quanto riguarda le fonti rinnovabili, per cui le fonti rinnovabili in agricoltura sono anch'esse incentivate. Senta, visto che è anche quasi l'ora di pranzo, ci faccia un po' sognare, che cosa producete lì di eccellenza, di prodotti? Io ho visto anche sul sito, ci sono delle cose meravigliose. Beh, noi a Borgo Luce, oltre a produrre, come diceva prima, energia, soprattutto ci consideriamo un'azienda agricola, per cui la prima cosa che produce l'agricoltura sono alimenti. Noi siamo a Susegano, in provincia di Treviso, come diceva, siamo nella zona del Prosecco, per cui noi abbiamo una parte dell'azienda vigneti e produciamo vino, produciamo il Prosecco superiore, ma poi abbiamo allevamenti, un allevamento di bufale con la produzione di mozzarelle, abbiamo un allevamento di suini che trasformiamo in salami tipico della nostra provincia, la soppressa trevigiana, e poi abbiamo una linea di farine di mais per la produzione di polenta, abbiamo una piccola e tra l'altro di olio d'oliva. Ho letto che col mais fate anche una serie di prodotti per i celiaci, cioè per questo mercato che sta crescendo purtroppo per questa forma di intolleranza alimentare, no? Noi produciamo infatti una parte della nostra produzione mais bianco, anche mais giallo, che va all'industria per i celiaci, per produrre pasta senza glutine. Qual è la prima cosa che le viene in mente, la richiesta per incentivare il lavoro come il vostro? Di che cosa avrete bisogno? Beh, innanzitutto delle regole chiare. Oggi in agricoltura, forse come altri settori, ma la burocrazia che colpisce il nostro settore è molto molto elevata e gli adempimenti sono tantissimi e abbiamo una normativa che è molto complessa. Andrebbe innanzitutto snellita. Regole che devono essere comunque chiare, regole certe che tutti devono rispettare, ma oggi c'è poca chiarezza. Grazie per essere stato con noi, Borgo Luce, buon lavoro e a presto. Grazie a lei, grazie a tutti i radioascoltatori. Benissimo, benissimo. Questa era la prima storia che vi volevamo raccontare. 800 24 00 24. Le vostre idee, le vostre proposte. Aspettiamo gli incentivi che vengono messi in campo nelle vostre città, la green economy. E poi più tardi parleremo anche di mamme, di donne e di mamme, il futuro, perché non cresce l'economia senza le mamme. Vedremo il prossimo Parlamento, che sarà forse a maggioranza di donne, l'hanno detto tutti. Ci saranno moltissime donne, affronteranno questo argomento. Tra poco, 800 24 00 24. Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso dentro il secchio, bisogna averlo tutto. per fare certe cose. Ci vuole orecchio. Ora state incollati alle sedie, arriva Camilla dal mondo della sostenibilità con le sue news sostenibili. Buongiorno Camilla. Buongiorno a tutti, ciao. La nostra fondatrice di pupulito.com, ne abbiamo già parlato, un'iniziativa. Tu come hai sviluppato l'orecchio, Camilla, per le notizie e per il mondo della sostenibilità che ti vede impegnata in primo piano con una tua piccola e innovativa impresa? Beh, io l'orecchio l'ho sviluppato perché comunque condivido, cioè vivo, cerco di vivere diciamo in modo più etico possibile, quindi diciamo che fa parte comunque del mio vivere quotidiano. Poi insomma è anche il tuo lavoro, perché ricordiamo, tu che cosa fai nella vita? Io lavo pannolini lavabili per bambini, nel senso che è un servizio di noleggio e lavaggio di pannolini per bimbi. Una cosa da pazzi, pannolini lavabili, però insomma... Non è da pazzi. Insomma, io ci ho avuto, posso dirlo, mia sorella che l'ha fatto e sono diventati un po' pazzi. 3 figlioli tra l'altro, un'impresa incredibile. Però non ce l'avevano la lavanderia che gli dava una mano. Invece tu a Novara, con questo servizio innovativo, stai dando una mano ai genitori che credono in questa cosa. Certo, perché sono pazzi invece chi usano gli usa e getta. Io penso a questo. Grande Camilla. Camilla Masala. Allora, che notizie col tuo orecchio ci hai trovato questa settimana sul mondo della sostenibilità? Fra l'altro, non citare nulla di politico, Camilla. No, però cito delle leggi. Oggi mi sono fissata con i numeri. Cito leggi e cito date, cercando di non annoiarvi naturalmente. Allora, vediamo. Prima di tutto segnatevi 16 febbraio 2013, una data che è già passata. Sì. Finalmente la volta buona che una legge che in realtà esiste da una ventina di anni possa diventare realtà, nel senso che dal 16 febbraio tutti i comuni con più di 15.000 abitanti sono tenuti a piantumare un albero per ogni bimbo nato. Questo in realtà non è qualcuno l'avrà già orecchiata tante volte, il punto è che nessun comune sostanzialmente l'ha mai messo in pratica. Come tante cose in Italia, Camilla, mi viene da dire. Cioè questa è una legge di 20 anni fa? Praticamente è stata emanata nel 1993. E adesso perché diventa invece concreta? Allora, dovrebbe diventare concreta perché comunque è stato istituito un comitato presso il Ministero dell'Ambiente che vigilerà sull'applicazione di questa legge. Quindi il bello, secondo me, anche la differenza tra la legge e quella precedente è che verrà piantumato un albero non solamente per i bimbi naturali, ma anche i bimbi adottati. Quindi allarghiamo un po' la platea. Insomma, un albero per ogni bimbo, è bella. Sì. È molto bella, di alberi abbiamo bisogno, sicuramente. Sì. Questa, insomma, speriamo di non essere qua tra 20 anni, non dico, ma anche meno, a commentare che questa legge è stata di nuovo, come dire, implementata, ma non la fa mai nessuno. Poi hai trovato qualcos'altro? Sì, la seconda data, questa è importantissima, 11 marzo del 2013, anche questa segnatevela sull'agenda. Questa invece deve ancora venire, cosa succede quel giorno? Allora, questa data segnerà la fine dell'utilizzo di qualunque ingrediente prodotto in uso nell'ambiente e nel settore cosmetico testato sugli animali. Anche questa è comunque una voce che girava da tempo, da anni. Mm-hmm. Il problema è che ci sono sempre state deroghe, quindi deroghe su deroghe, e quindi non si è mai segnato lo stop definitivo all'utilizzo di ingredienti. Ma chi è che ha messo questa mannaia, per fortuna, contro i test sugli animali? Cioè, da chi è? Qual è la fonte? L'Unione Europea. L'Unione Europea. Quindi insomma abbiamo le spalle coperte. Sì. Una volta tanto l'Europa serve a qualcosa, serve agli animali in questo caso qua. No. Tu hai degli animali, Camilla? Scusami? Tu hai degli animali? Io ho 2 micetti. Ah, vedi, quindi sei particolarmente sensibile. Sono una gattara. Vabbè, poi c'è dell'altro? Sì, allora, legato in qualche modo alle leggi, vi parlo dei carceri, nel senso che, o meglio, di quelli che sono i progetti che sono in atto nei carceri, nel senso che questa settimana, probabilmente qualcuno di Milano c'è già stato, ha inaugurato un negozio vicino a Piazzale d'Ateo che ospita e promuove e vende tutti quei prodotti e servizi che vengono comunque realizzati all'interno dei carceri milanesi. I carceri? Ma non si dice le carceri? Non si dice le carceri? No, io ho sempre detto i carceri. I carceri, non lo so, Giorgio De Luca in redazione, dacci una mano. Si dice... no, adesso mi metti un dubbio. No, non carceri, è che ti metto un dubbio, ti do 5 meno perché mi sa che no. Si dice le carceri. Vabbè, ma forse si può dire in tutti e due i modi. Sai che l'italiano a volte, da questo punto di vista, è ambiguo. Ma scusa, ma perché io dovrei andare a comprare prodotti sapendo che sono fatti in carcere? Cioè, qual è l'interesse per me, che sono il consumatore finale? Si parlava prima di sostenibilità sociale e in questo modo comunque si promuovono delle iniziative in cui comunque si supporta l'inclusione sociale di persone che comunque sono tagliate fuori di fatto adesso dalla società o comunque dall'economia locale. Quindi questo è un modo per promuovere, per valorizzare capacità di persone che comunque attualmente non possono rientrare nell'economia. Vabbè, qua sei andata un po' fuori campo rispetto alla Green. Siamo partiti con le leggi, dai. Vabbè, poi noi diciamo sempre questo sì. No, poi noi diciamo sempre una cosa: che ricordiamoci che dietro le sbarre del carcere non è che finiscono le storie, iniziano, perché poi dobbiamo sempre sperare che le persone che entrano trovino dei progetti per essere recuperate. Altrimenti, quando poi escono di nuovo e tornano a delinquere, sappiamo che, come diceva qualcuno, il carcere è l'unica università che funziona in Italia, l'università del crimine. Invece progetti come questi che fanno lavorare i detenuti sicuramente abbattono, ci sono delle statistiche. Poi la questione della recidiva. Va bene, Camilla, sei salvata in corner, non so se ci vuoi raccontare qualcos'altro o ci salutiamo. Come vuoi tu, allora se vuoi vado a guardare sul dizionario come si scrive le carceri o i carceri, altrimenti ti parlo di un'altra notizia. Allora, carcere è maschile, questa è la voce della redazione di Radio 24, quindi, ma al plurale è femminile, le carceri. Va e quindi... grazie. No, vabbè, certo. Però cosa, secondo me non era sbagliatissimo, perché hai ragione, il carcere è maschile, quindi uno al plurale istintivamente fa come dici tu. Chissà quanti adesso in Italia staranno dicendo, beh, meno male, bella lezione di italiano. Un'ultima notizia in 30 secondi, se ce l'hai. Ok, un'ultima notizia arriva da Modena. A Modena è stata istituita un'associazione, si chiama Coabitat, riunisce, adesso sono 17 famiglie con bambini piccoli, che hanno in futuro un progetto comunque di avviare un progetto di co-housing finalizzato a quello che sono le attività in condivisione mirate a quelle che sono comunque l'accudimento dei bambini. Quindi non ci ho capito quasi nulla, però ho capito co-habitat, insomma un modo diverso di abitare, sì. Si sperimenta a Modena. Sì, a Modena, È bella, mettila su Facebook di Si può Dai, fare va bene. E poi così la approfondiamo. Grazie Camilla Masala, bene, ciao, grazie per essere ciao. Stata con noi ancora una volta. Lei è la fondatrice a Novara di pupulito.com, andate sul sito a vedere questa impresa innovativa. Vogliamo sentire un ascoltatore prima della pausa? Sì, Roberto da Bari, 800 24 00 24, buongiorno. Pronto? Eccolo, Roberto. No, si è spaventato. Allora, sentiamo Luigi da Belluno, forse, se è un po' meno timido. Buongiorno, Luigi. Sì, buongiorno a voi e ai radioascoltatori, buongiorno. Eccoci qua. Ecco, io volevo intervenire un attimo sulla burocrazia, sulla troppa burocrazia per iniziare un'impresa. Guardi, io volevo dire semplicemente la mia esperienza, ho fatto 40 anni di artigiano, poi ho chiuso l'attività perché non avevamo più la certezza di riscuotere i crediti e ho pensato bene di dedicarmi alla mia passione che era l'apicoltura e quindi iniziando una nuova avventura con l'attività agricola. E tutto bene finché l'attività agricola si ferma a livello di hobby, di hobbistica. Nel momento in cui uno vuol fare le cose fatte seriamente, no, si iscrive a tutte le associazioni di categoria, va avanti, fa le sue domande, eccetera, e poi interviene la parte burocratica che veramente è esasperante. Cioè, io ho avuto un modo di frequentare dei corsi per 2 anni, quei ragazzi che fanno un nuovo insegnamento in agricoltura, e gli ho detto, ragazzi, mi fate pena. Perché veramente ci sono tra legacci, legacciuoli, leggi contraddittorie spesso tra di loro che rendono la vita impossibile a queste persone. Quindi quando dicono sì ai giovani avviatevi all'agricoltura, io dico ragazzi attenzione perché intanto secondo me devono avere qualcuno alle spalle che ha delle possibilità economiche che li finanzi. È per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole, è per te ogni cosa che c'è in Anana. per te ogni cosa che c'è in anamnese. Insomma, lo sappiamo già che il prossimo Parlamento avrà un numero di donne e quindi anche di mamme più alto che mai in passato. Speriamo e sicuramente verranno prese delle misure per incentivare le donne a continuare a lavorare. Servizi per la maternità, lo sappiamo che questo è uno dei grossi freni anche all'economia. In attesa di vedere che cosa combinerà il prossimo Parlamento su questo, noi vi vogliamo raccontare una storia di chi una soluzione, nel campo privato naturalmente, già la offre da poco. È una cosa innovativa, si chiama Piano C. Viene da Milano, piano C tra il piano A e il piano B. Piano A si sta a casa, piano B si torna a lavorare. Qui è una via di mezzo. Riccarda Zezza, buongiorno. Buongiorno. Cofondatrice di Piano C. Di cosa si tratta? Allora, come diceva lei, il piano A è lavorare basta, il piano B è dedicarsi solo alla famiglia. E perché non pensare a un piano C che possa mettere insieme tutto? Quindi un nuovo modo di organizzare il lavoro è dedicato in principio alle donne tutte e ai papà, in cui usando lo spazio e la community in modo diverso in effetti si faccia guadagnare tempo alle persone e si armonizzi meglio la vita con il lavoro. Andando più diciamo sul concreto, perché è un'iniziativa innovativa in Italia, io credo che ce ne siano poche così. Prima di tutto è un modello che avete preso dall'estero, avete pensato a qualcosa in particolare? Vi siete ispirati a qualcuno? Sì, allora andando in concreto si tratta di... lo spazio pilota a Milano è un co-working di base, sì. Un spazio dove si può lavorare tutti insieme condividendo le risorse. Però esistono dei co-working nel mondo che offrono anche dei servizi, e tra questi servizi esistono anche dei co-working che offrono dei parking. Quindi abbiamo intanto preso esempio questi modelli qua, co-working più baby parking, per consentire alle donne, ma anche agli uomini, di lavorare rimanendo nei pressi dei propri figli. E poi abbiamo aggiunto una serie di servizi in più, che noi chiamiamo servizi salva tempo, con l'idea appunto di fare la spesa, la lavanderia, ma di mettere in comune anche corsi di formazione, eventi, e consentire così alle persone di lavorare in maniera più armoniosa con un lavoro più a misura di vita. Cioè io sono una persona, sono un papà oppure sono una mamma che ha un bambino piccolo e che magari lavoro come libero professionista o sono un precario, comunque non devo andare tutti i giorni in azienda, perché altrimenti il problema in questo caso è un po' diverso, perché tocca trovare un asilo vero e proprio dove portare il bambino. Posso venire da voi invece e gestire dei momenti dove io posso lavorare, condividere lo spazio anche con delle altre persone, e di là c'è il bimbo con un educatore o un'educatrice. Poi voi fate anche dei servizi per aiutare, tipo maggiordomo, insomma, no? Piccole commissioni, cose così. Quindi un pacchetto completo. Sì, e poi l'altro elemento molto importante che abbiamo visto anche con un sondaggio fatto sulle co-worker è quello della formazione, perché molte donne smettono di formarsi quando hanno dei figli, perché spesso la formazione è in fasce orarie che sono fuori dall'orario scolastico. Per esempio, ieri abbiamo fatto un corso di blogging e avevamo 8 partecipanti, 4 bambini, nella parte bambini, quindi finalmente ci si può ricominciare anche a formare e fare un po' di sviluppo personale grazie a questi servizi. Ecco, questo qua è un investimento che avete fatto voi soci, no? Diciamolo, è un investimento completamente privato, perché uno poi magari può pensare che non ci sarebbe nulla di male, che ci sono stati degli investimenti pubblici, perché insomma sembra un'impresa molto votata al sociale, oltre che anche a un profitto che voi naturalmente cercherete, no Riccarda? Noi cercheremo soprattutto la sostenibilità, e già quella è una sfida, nel senso che noi siamo un SRL, perché proprio per volontà abbiamo voluto fare una società che sia in piedi senza bisogno di beneficenza. Abbiamo avuto difficoltà a trovare dei fondi proprio perché siamo molto innovativi, quindi non rientriamo in nessuna definizione, addirittura non rientriamo neanche nella definizione di startup innovativa, perché non siamo prettamente tecnologici, anche se usiamo molto la tecnologia. Sì, anche questa è una cosa che fa sorridere, no? Perché adesso va di moda premiare le startup nelle nuove tecnologie, come se l'economia si reggesse solo su queste nuove tecnologie. Che poi alla fine vuol dire tutto su internet, ma ci sono imprese innovative come questa, perché sicuramente in Italia di cose così ce ne saranno pochissime, che però rischiano di essere penalizzate perché non sono tecnologiche in sé per sé, come se la tecnologia di per sé risolvesse tutti i mali, ma insomma questo c'entra poco. Prego. In realtà la tecnologia è uno strumento, il problema è quando la città diventare un fine. Noi la tecnologia la usiamo tantissimo, sia per la community sia per tutta la parte di processi. Quindi siamo molto tecnologici, però non abbiamo il fine tecnologico, abbiamo un fine sociale. Senti, per venirvi a trovare, dove siete? Siete a Milano? Chi si fosse incuriosito, c'è il sito? Siete fisicamente da qualche parte? Sì, allora il sito è pianoc.it. Il primo spazio è a Milano, in via Simone Borsenigo, zona Viale Umbria, ma è destinato a replicarsi molte volte, sia in tutta Italia che a Milano, perché abbiamo molte richieste e perché l'obiettivo vero è che questo modello si diffonda, non solo in co-working, ma anche in aziende e anche con le istituzioni. Anche a te, Riccardo, voglio chiedere questo. Qual è il telegramma che vorresti inviare al prossimo Parlamento, visto che state avviando un'impresa innovativa in un settore come questo, di sostegno di servizi alle mamme, anche ai papà, che è così utile, così prezioso, così cruciale per il nostro paese, qualcosa di cui, insomma, qualcosa che vorreste, qualcosa che vi faciliti nel vostro lavoro, nella vostra impresa? Ho due messaggi. Uno è: riportiamo per favore la felicità al centro dei nostri obiettivi, visto che ultimamente sembra che ce la siamo un po' dimenticata, ricominciamo a pensare al benessere, allo stare bene delle persone. E l'altro messaggio è: vorrei tanto che il nuovo governo sia più flessibile nel capire, nel dialogare, sia meno rigido nel porre formati e modelli, perché così frega l'innovazione. Va bene, va bene. Grazie, Riccarda Azzezza, cofondatrice di Piano C, l'abbiamo detto, c'è il sito, potete andarlo a trovare a Milano se siete in questa zona. Se invece vi siete incuriositi e volete mettere su un'impresa del genere, insomma, magari contattatele, vi fanno anche qualche consulenza. E poi, Riccardo, è ancora in linea? No, non c'è più. Sì, so che volete anche fare un'altra cosa, cioè volete creare delle consulenze per fare questa cosa nelle aziende, perché poi alla fine chi lavora come dipendente è tagliato fuori da una proposta come la vostra. Invece se si riuscisse a farlo anche nelle aziende, il co-working sarebbe bello, no? Sì, anche perché è un dato statistico che una donna su tre dopo la maternità non rientra al lavoro, e questa è una perdita di risorse folle, senza senso. Certo. Con un piano C applicato magari un po' in azienda, oppure alternando l'azienda a spazi di co-working, noi crediamo di poter migliorare questa situazione e far rientrare al lavoro le donne in modo sereno ed equilibrato. Va bene, allora in bocca al lupo per la vostra iniziativa, grazie per essere stata con noi. Noi ci fermiamo, anzi, prima di fermarci per il traffico sentiamo un altro ascoltatore all'800 24 00 24. Cosa c'ha da dirci Francesco da Lodi? Benvenuto. Sì, buongiorno, mi Eccolo. Sente? Benissimo. Buongiorno a tutti. Niente, io ascoltavo la radio e ascoltavo appunto quel signore che diceva il discorso della sintomazione degli alberi che fanno i comuni per ogni bimbo che nasce, no? Sì. Allora, io sono diventato nonno lo scorso anno e nel mio giardino ho piantato un bel albero da frutto, un albicocco forte, e quindi dico... Che bello. Il comune fa bene, però è bello che... Poi certo, sì. Lei c'ha il giardino, Francesco, sì. Beato lei, io il giardino non ce l'ho, cosa pianto? Beh, lo fa il comune per me, è questo il senso. Però lei giustamente non aspetta, visto che la possibilità ce l'ha, si è rimboccato le maniche, è un bel messaggio, no? La prima cosa che ho pensato, proprio adesso è nata nella mia nipote, e dico, gli pianto un bel albero da frutta, forte, ho sì. piantato un albicocco che è fortissimo, perché noi siamo in una zona che la frutta la vediamo... così, insomma, per miracolo, perché la Padana, è pianura Padana dove sono io, è molto umida, no? Quindi fa fatica, però diciamo che cresce bene. Già, lei è soddisfatto di questo suo albicocco, bello. Sì, soprattutto della nipotina più che dell'albicocco. Ma questo è naturale, è ovvio, mi sembra giusto. Vada al Comune di Lodi e si offra per fare delle consulenze per piantumare gli alberi, visto che questa legge riguarda anche il Comune. No, non esageriamo. Non così tanto, è sufficiente a casa mia, la ringrazio. Grazie a lei, Francesco. Il tortellino è dalla selezione musicale dello Zecchino d'Oro 2008. Oggi i bambini sono un po' il filo conduttore del programma, non era neanche voluto, ma è venuto così per questa storia della piantumazione degli alberi. Perché qual è la notizia invece da cui parliamo? Nella settimana da cui partiamo adesso, nella settimana dello scandaletto della carne di cavallo apparsa all'improvviso nei piatti degli italiani, noi ci siamo chiesti, nello spirito del programma, ma c'è ancora chi, e sicuramente c'è qualcuno, che coltiva l'eccellenza alimentare, prodotti buoni, sani, eccetera. Domani racconteremo due belle storie di prodotti locali, con un mitico lattaio della provincia di Brescia. Oggi invece siamo andati a Bologna perché proprio in questi giorni viene rilanciata l'associazione Turtelen. Allora salutiamo il nostro prossimo ospite, che è uno dei fondatori dell'associazione, Fabio Biagi, del ristorante Biagi, storico di Bologna. Buongiorno Fabio. Buongiorno, come va? Tutto bene? Bene, adesso voi sarete lì nel ristorante, visto l'orario? Sì. Cosa siamo preparate tutti a quest'ora? Vabbè, tutti i vostri piatti classici. Ovviamente. I tortellini. La canzone la conosceva, lo Zecchino d'Oro? Certo, dell'amico Alex Visi, tra l'altro molto bravo. Certo. Senta, ma è ancora alto l'onore alimentare? Tra l'altro prendiamo momentaneamente e in maniera del tutto immeritata il testimone da Davide Paolini, che meno di un'ora fa ha parlato per un'ora, come sempre il sabato, alla grande di queste cose qua. L'onore della tradizione alimentare italiana, nonostante scandaletti e scandalucci, e di Bologna in particolare, è ancora alto? Ma io direi di sì, perché ci teniamo moltissimo che la nostra città sia sempre considerata una delle migliori in assoluto per la gastronomia. Tra l'altro, lei che cosa ne pensa in particolare, Fabio, di questa questione qua? Io l'ho chiamato lo scandaletto, perché è stato detto che non ci sono problemi per la salute, poi oggi addirittura è stato detto che nella carne Nestlé non c'era presenza di carne di cavallo, quando invece però doveva essere manzo, e quindi diciamo è un po' questa la questione, una sorta di frode alimentare, come la vogliamo chiamare. Lei che ne pensa di questa cosa qua? Ce ne sono stati di peggiori, però. Esattamente, ce ne sono stati di molti peggiori, anche perché in fin dei conti hanno messo un ingrediente al posto di un altro. Certo, l'hanno fatto per massimizzare i profitti, che non è sicuramente una delle cose migliori. Fabio, mi chiedono, interrompo un attimo, di farle spengere la radio, perché sennò sentiamo il ritorno, di ascoltarci solo al telefono, se è possibile. Sì. Prego. Quindi stavo dicendo che la cosa migliore in assoluto è quella sempre della massima onestà. Fra tutto quello che riguarda gli scandali che ci sono stati in Italia, non è il peggio, se non, ripeto, frode alimentare, perché ti raccontano una cosa per un'altra. Se i prodotti sono validi, se i prodotti sono validi, quelli che sono all'interno e non sono nocivi per la salute, insomma, abbiamo visto cose molto peggiori. Dall'olio, lo so, però che in realtà non era olio, sarebbe come se io venissi, Fabio, sarebbe come se io venissi al ristorante da voi, da Biagi, alle porte di Bologna, dalle parti di Casalecchio, se ricordo bene. Sono trasferiti in centro. Ah, vi siete trasferiti in centro? Ma io ho un ricordo di tanti anni fa. Sì. Ah, però benissimo. A parte questo, però sarebbe come se io venissi e chiedessi un piatto di prosciutto e mi dà Bresaola. Sono perfettamente, d'accordo con lei. Però vediamo dal punto di vista. Diciamo, andando per priorità, abbiamo visto di peggio, e questo l'abbiamo acclarato. Esatto. Insomma, va bene, ma questo era un po' il pretesto. Io ho visto che voi avete fatto questa associazione Turtelen, sì, perché sì, esatto. Avete fatto delle cose prima e adesso volete fare delle cose in futuro. Cosa? Allora, Turtelen si chiama, sì, il detto bolognese, come chiamarli, però è composta da tour, cioè il viaggio in inglese, tlen. Abbiamo un po' modificato la parola. Ma lo dice tlen perché ha detto Turtelen. Turtelen, perché ha detto tour, così. Sì, la I in fondo non c'è. Ma il nostro scopo è quello di portare la bolognesità in giro per l'Europa e diffondere appunto tutta la gastronomia bolognese e la serietà appunto che c'è dietro a questa tradizione incredibile. Quindi noi 12 ristoratori, che siamo piuttosto conosciuti nella città e forse anche oserei dire nell'ambito regionale, e ci siamo uniti senza scopi di lucro, ma semplicemente per dire: noi bolognesi esistiamo, vogliamo portare avanti la nostra tradizione e diffonderla il più possibile. Quindi abbiamo costituito questa associazione culturale appunto per portare i nostri prodotti a tutti, utilizzando soprattutto il canale delle piazze e di quant'altro, e dando un bicchiere di vino a un prezzo contenuto, che può essere da 1-2 euro massimo, però un ottimo prodotto, e fare un assaggio dei nostri tortellini, calcoli che siano già una ventina di ristoranti dai 12 iniziali, sì, con una sorta di degustazione che viene a costare tipo un euro piatto, un euro e mezzo. Ma è vero, Fabio, che io ho sentito dire tanto tempo fa, ma sarà una leggenda metropolitana, che il vero tortellino deve essere piccolo, cioè devono stare 12 in un cucchiaio. Allora, la tradizione dice che minimo devono stare in un cucchiaio 8-9 tortellini. 8-9 tortellini. I nostri, che sono tra i più piccoli in assoluto, si arriva a 16, ma noi siamo un po' particolari perché crediamo molto che il tortellino buono, con un buon rapporto di ripieno e pasta, cioè sottile, sia meglio. Ma tra l'altro, insomma, il tortellino è anche una cosa bella da fare la domenica insieme in casa, in famiglia, ci si diverte, si impasta, certo, un sacco di ingredienti. Esatto, si fa il tortellino, il bicchiere di vino, la chiacchiera, la ciambellina, poi si va a pranzo tutti insieme. E questa è la tradizione, lo stare insieme e tenere unite le famiglie. E poi, se uno proprio non ne ha voglia, non ha tempo, va al ristorante da Biagi a Bologna e assaggia 16 tortellini in un cucchiaio, che è un fatto quasi miracoloso. Grazie Fabio Biagi per essere stato con noi, Tourtelin a Bologna, per rilanciare la tradizione e l'eccellenza alimentare. Grazie anche a Giorgio De Luca in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Valeria Bernardi in regia. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno. Allora, il centro di Roma la sera è vuoto, i palazzi sono uffici e cose, che la notte non c'è niente. E invece la gente vive nelle periferie, per cui c'è più traffico, più tutto, la gente non può andare a piedi. Invece riempite il centro di Roma con la gente che vive, che esce a piedi, che vive nella città, e mandate tutti gli uffici, i magazzini, le cose nei palazzoni delle periferie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.